Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. Se siete tra quei proprietari di cani che ancora non si sono rassegnati a girare muniti di sacchetto per raccogliere, diciamo così, gli eventuali lasciti del vostro amico a quattro zampe, beh, sappiate che per voi si preannunciano tempi duri. Mentre se siete tra coloro ai quali, come ha sottoscritto, capita ogni tanto, usciti di casa, di dover fare lo slalom tra le cacche di cane, beh, sappiate che è venuto il momento della rivincita. A Malnate, infatti, piccola città della provincia di Varese che conosco bene, non fosse altro perché ci abito, sta per partire un'iniziativa che fa veramente impallidire anche CSI. Ma io non aggiungo altro e lascio la parola, ci facciamo spiegare insomma tutto dal sindaco di Malnate, che è Samuele Astuti. Buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Allora, sindaco, in che cosa consiste questa iniziativa? Un'iniziativa che nasce tra l'altro dalle esigenze dei bambini che 5 anni fa ci hanno detto: Samuele, sindaco, non è possibile andare in giro per le strade, camminare in giro per le strade con tutte queste cacche dei cani, le famose deiezioni canine. Allora noi abbiamo iniziato a fare una grossa sensibilità. Fecero anche notare un dettaglio non da poco, che loro, essendo più bassini, se ne accorgevano anche prima, diciamo, gli effluvi arrivavano, no, più diretti. Esattamente. Esatto. Martina, infatti, dopo che abbiamo fatto un grande lavoro, manifesti, qualche multa finalmente, tanti cestini in più, Martina mi ha detto: se vuole, guarda, voi sulle deiezioni canine non investite a sufficienza perché non avete il nostro stesso problema. Lei fa la quarta elementare e mi ha fatto notare che loro, essendo più bassi, sentono di più la puzza della cacca dei cani. E allora abbiamo ragionato, abbiamo pensato su che cosa possiamo fare. Che cosa possiamo fare? Possiamo utilizzare il DNA presente all'interno delle deiezioni canine per risalire al proprietario del cane. Il cane non è maleducato, è maleducato il suo padrone, certo. E poterlo finalmente multare. Ecco, allora vediamo come si può mettere insieme questa procedura, che è veramente da CSI, perché intanto bisogna conoscerlo questo DNA dei cani per poi poterlo riconoscere nelle deiezioni. Esatto, infatti dobbiamo andare come prima cosa a costruire un database, quindi andare tramite veterinari a fare un tampone salivare ai nostri cani, circa 1500 a Malnate, e andare sulla base delle analisi di laboratorio a risalire al DNA e a questo punto creare il database. Una volta che abbiamo il database, parte la seconda fase, cioè quella in cui la polizia locale e le guardie ecologiche, su mandato del sindaco, nel momento in cui trovano delle deiezioni canine, ne la documentano, rilevano un pezzo delle deiezioni canine che verranno inviate a un laboratorio analisi, il quale ci farà sapere chi è il proprietario di quel cane. Chi è il proprietario di quel cane? Ma se uno non porta il cane dal veterinario? Se il cane non viene portato dal veterinario, noi in realtà lo sappiamo, perché tutti i cani sono comunque sia censiti grazie al microchip, e quindi noi sapremo nel giro di poco tempo chi ancora non è andato dal veterinario, lo solleciteremo noi. Oh, benissimo. Allora, una domanda che possono farsi alcuni è: ma quanto costa questa procedura? D'accordo, vogliamo tutte le strade pulite, ma non vorremmo poi che ci costi più quello della pulizia delle strade. Assolutamente no, non costa assolutamente tanto. Diciamo che il costo per costruire il database e la fase iniziale potrebbe essere intorno a 10.000 euro, e questi 10.000 euro non verranno pagati dai contribuenti malnatesi, bensì dalla società che ci pulisce le strade, che ne ha un beneficio dal fatto che riusciamo ad avere le strade più pulite. Per quanto riguarda invece la seconda fase, cioè il momento in cui la polizia locale recupera questi campioni e li fa analizzare, esatto, queste verranno poi ribaltate invece sul trasgressore della legge, su questo grande maleducato che sporca le nostre strade. E quindi insomma, appunto, da lì arriveranno i soldi per tenere, dalle multe banalmente, ma arriveranno i soldi per tenere in piedi tutto il meccanismo. Di multe speriamo di farne pochissime, speriamo che quei pochi ancora, perché in realtà sono pochi, anzi pochissimi, quelli che trasgrediscono la legge così maleducati, però speriamo che nel giro di poco tempo si convincano che è arrivato il momento di raccogliere le cacche dei propri cani. Eh sì. Oppure diventeranno dei gattofili e si rassegneranno. Va bene, grazie Samuele Astuti. Grazie a voi, buonasera a tutti e buon appetito. Effettivamente questa è l'ora di cena, ho paura che abbiamo rovinato l'appetito a un po' di persone, ma che volete, anche questa è innovazione. Vi ricordo, visto che abbiamo ancora qualche secondo, che le puntate di Smart City sono disponibili anche in podcast sul sito di Radio 24, che dal sito di Radio 24 potete anche facilmente contattarci. Questo è davvero tutto, vi lascio Effetto Notte e a Roberta Giordano.